No, non le abbiamo contestate dal primo giorno, tant'è che abbiamo ottenuto una serie di cambiamenti. Vi ricorderete che, per esempio, all'inizio era stato detto che le firme che agli elettori è richiesto di fare al seggio sarebbero state poi pubblicate in qualche modo, sarebbero state rese pubbliche. Il garante per la privacy ha dato ragione a noi. Hanno dovuto accettare la registrazione online che in un primo tempo avevano negato. Oggi il tema è che secondo loro, e permettetemi di dire al secondo turno debba votare soltanto chi ha votato al primo turno, salvo quelli che possono esibire giustificati motivi per non aver potuto. No, non è secondo loro, è secondo la regola che bene o male ho capito, ma è una regola che non ha senso, perché in Francia Hollande tra il secondo turno ha ricevuto 500.000 voti più che al primo. C'è un sacco di gente che oggi vuole dare il proprio consenso a Bersani o a Renzi, non lo so, domenica, e che non ha senso tenere fuori dai seggi. Noi chiediamo soltanto che sia possibile registrarsi, come è stato fatto la prima volta, quindi sottoscrivendo l'appello degli elettori del centro-sinistra e tutto il resto, fino a domenica, e che sia possibile farlo anche online. Sono regole dettate dalla paura, come quella di voler tenere i sedicenni fuori da questa tornata di voto. I sedicenni possono iscriversi al partito, eleggere il segretario, votare alle primarie per la regione Lombardia, ma non hanno potuto votare a queste primarie. Mi spiegate qual è la ratio? È così per la registrazione sul secondo turno.